c'era molta confusione sulla situazione fiscale di Airbnb. Da dove nasce poi questo sequestro? Nasce dal fatto che storicamente Airbnb ha sempre rifiutato di pubblicare dati e anche dati fiscali rispetto agli host che utilizzavano la piattaforma per mettere in affitto i propri appartamenti. Si è sempre rifiutato di farlo e questo aveva costruito un circolo vizioso di una sorta di doppia evasione, perché da un lato c'era appunto l'evasione da parte dei proprietari immobiliari che non versavano di fatto l'ace dalla resecca e quindi il 21% dei loro guadagni su Airbnb, e dall'altro lato Airbnb stessa che con enormi profitti sul territorio italiano, ma avendo sede fiscale in Irlanda, non versava di fatto quasi nulla al fisco. Quindi questo circolo vizioso è andato avanti per anni, noi l'abbiamo sempre denunciato, fino a quando poi nel 2017 il governo Gentiloni, tramite una norma inserita nella cosiddetta manovrina, definisce che Airbnb dovrà agire da sostituto d'imposta. Cosa significa? Significa che Airbnb di fatto anticipa la cedola resecca ai fini del fisco per poi farsi pagare dai proprietari. Questo significherebbe che poi sarebbero versate tutte le cedole resecche di tutti i proprietari. Airbnb si è sempre rifiutata, diversi ricorsi, si arriva poi finalmente al Consiglio di Stato e alla Corte di Giustizia Europea, che entrambi sanciscono che Airbnb doveva agire sostituto d'imposta. E così scopriamo che dal 2017 al 2021 Airbnb non ha versato circa 4 miliardi di imposte di cedola resecca, e da qui poi nasce questo sequestro di 780 milioni. È un dato sicuramente importante, adesso vedremo un po' come procederà l'inchiesta della Procura di Milano. Quello che dico è che se da un lato finalmente si è colpito sulla parte fiscale una grande piattaforma, dall'altro lato non potrà di certo bastare questa iniziativa per ripristinare un minimo di giustizia anche fiscale nella vicenda. Quello che colpisce e che insomma anche tu hai detto più volte è che comunque la cedola resecca è il 21% di quanto appunto incassato, e i lavoratori dipendenti ad esempio pagano tasse più alte. Sì, diciamo che l'utilizzo che si fa in Italia della cedola resecca è molto ingiusto, nel senso che la cedola resecca al 21% viene utilizzata sia per le locazioni brevi, quindi le locazioni turistiche, sia anche per gli affitti di lungo periodo a canone di mercato. È un incentivo che io ritengo, insomma, sempre ritenuto spropositato nei confronti dei proprietari, anche perché appunto, come dire, non fa sì che ci siano ulteriori risorse che vengono prese dal fisco, dalla fiscalità generale, per poi essere reinvestite, anzi abbassa di fatto la quota di risorse e di tasse che si potrebbero riscuotere. Quindi sì, questo meccanismo è un meccanismo sbagliato. Ultimamente c'è stata una discussione anche in finanziaria per aumentare la cedola resecca al 26% per gli affitti brevi, ma il governo poi ha fatto fare subito marcia indietro, perché non esiste toccare degli interessi come quelli della rendita immobiliare. Tra l'altro anche il disegno di legge Santanchè, che pareva insomma dover diventare decreto, poi in realtà ora insomma anche lì, per tornare indietro ed evitare di fare passi falsi verso, diciamo, quella lobby, si è deciso di tramutare in disegno di legge e aspettare insomma di vedere un po' come andranno le varie vicende. Sicuramente anche quel decreto ad esempio è insufficiente, ci sono una serie di misure che di fatto limitano ben poco Airbnb, tant'è che Airbnb si è detta addirittura anche contenta e soddisfatta un po' di questa forma di regolamentazione. Quindi per questo dicevo, va benissimo l'azione della Procura di Milano, va benissimo l'azione della Guardia di Finanza. Il tema è che la politica dovrebbe capire intanto come reinvestire ogni centesimo che viene riscosso da Airbnb. Per me andrebbero investiti in case popolari, nel loro miglioramento, nel loro aumento, e poi anche di trovare una sorta, diciamo, di legge anche su base europea per la quale queste piattaforme possano essere tassate in maniera strutturale, perché sono piattaforme che estraggono enormi ricchezze dai nostri territori senza poi però di fatto redistribuirli, e quindi, come dire, bisognerebbe trovare, diciamo, un meccanismo più complessivo e non affidarsi alle azioni solamente della procura, ecco.